America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, vorrei partire con alcune notizie delle ultime ore. Intanto quella di un personaggio molto importante che forse voi non conoscerete, si chiama Charles Tones, il nome probabilmente non dirà nulla, è morto ieri alla bella età, oltretutto, di 99 anni. Chi è il signor Tones? Beh, ha vinto il Nobel per aver scoperto i raggi laser nel 1964, ma poi ha anche inventato l'orologio atomico, ha aiutato a programmare lo sbarco lunare, ha verificato le teorie di Einstein. Ecco, comunque su tutto, secondo me, fra le varie notizie di ieri, su tutto prevale una storia economica che vorrei chiamare il valzer delle banche centrali. Starting next month, we will be purchasing $15 billion of securities per month, down $10 billion per month from our current rate. Ecco, ieri c'è stato l'incontro del Federal Open Market Committee, il comitato monetario della Federal Reserve, si erano riuniti anche martedì, ma ieri hanno dato il comunicato. Vi do una rapida sintesi. Prima di giugno di aumenti dei tassi di interesse in America non se ne parla. Tanto è vero che il New York Times in prima pagina titola proprio in questo modo. Dice, beh, forse a giugno ci sarà l'aumento perché le cose stanno andando molto bene. In realtà, e poi vedremo perché, dopo, da un punto di vista più tecnico, secondo me l'aumento potrebbe slittare anche ad ottobre. Ecco, comunque la Yellen ieri ha anche festeggiato con la consueta chiarezza il suo primo anno alla guida della Federal Reserve. Intanto la Yellen nel comunicato di ieri ha eliminato il termine riferito alla tenuta dei tassi di interesse per un considerevole periodo di tempo. Possono sembrarvi cose semantiche, ma voglio entrare nel dettaglio per darvi un'idea che, contrariamente a quanto si pensa, e cioè che queste decisioni delle banche siano delle cose così improvvisate, tutto sommato leggere, la partita, credetemi, è molto complessa. Vi dicevo, ha eliminato questo termine semantico per un considerevole periodo di tempo, ma ha confermato il riferimento alla pazienza. La Fed avrà pazienza coi tassi introdotto nell'ultima riunione. Pazienza per quanto? Ecco perché vi dico che sicuramente non si parla di aumenti prima di giugno. Perché la Yellen aveva spiegato nella conferenza stampa successiva alle riunioni di dicembre che la presenza del termine pazienza avrebbe indicato che per le due riunioni successive del Federal Open Market Committee, dunque riunioni che si tengono ogni 6 settimane, non ci sarebbe stato un aumento. La terza riunione forse lo avrebbe portato. La terza riunione sarà a cavallo del 18 di giugno. Ed ecco perché dunque prima di giugno non se ne parla. Detto questo, la Fed, come tradizione, tiene sempre la porta aperta. Recita il comunicato: se ci fossero variazioni nel quadro economico, le nostre scelte potranno cambiare rapidamente. Questo lo dicevo anche prima. Si tratta di una semplice presenza notarile? Forse sì, ma in realtà non lo è, perché la Fed ha introdotto un termine nuovo, molto importante, e da qui nasce questa mia idea del valzer delle banche centrali, perché la Fed dice si seguiranno anche gli sviluppi internazionali, vale a dire crisi tipo quella fra Russia e Ucraina, oppure l'andamento del prezzo del greggio. Però attenzione, perché secondo me la Fed qui si riferisce anche agli sviluppi che riguardano decisioni di altre banche centrali. Die Schweizerische Nationalbank hat beschlossen, den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro per sofort aufzuheben und ihn nicht mehr mit Devisenkäufen durchzusetzen. La Banca Centrale Svizzera per prima ha portato una sorpresa il 15 gennaio quando ha sganciato il franco svizzero nel rapporto di cambio con l'euro, consentendogli di flottare liberamente. Ecco che è successo, è stato un apprezzamento del 30% della valuta svizzera. It decided to launch an expanded asset purchase program encompassing the existing purchase programs for asset-backed securities and covered bonds. Il 22 gennaio, pochi giorni dopo, Mario Draghi annuncia che la Banca Centrale Europea comincerà le operazioni di quantitative easing, comincerà cioè ad acquistare titoli sul mercato per un valore considerevole che dovrebbe aiutare la crescita, l'economia, creare ulteriore liquidità sui mercati. Ma mentre la manovra della BCE era attesa, ce ne sono state altre che non lo erano. Per esempio la Malesia e la Thailandia hanno preso anche loro delle manovre che hanno contribuito a indebolire la loro valuta, sono preoccupati anche loro dalla deflazione. E ieri c'è stata una manovra di Singapore. Ecco, quella ha davvero colpito perché ha corretto le stime di inflazione per il 2015, stabilendo una forchetta compresa tra il più 0,5 e meno 0,5%. A novembre, a dicembre, il costo della vita a Singapore si è contratto e quindi anche a Singapore c'è la disinflazione. Vi parlo di questo per darvi un'idea di come i fenomeni sono globali, di come è importante tenere sotto controllo qualunque sviluppo possibile, e questo certamente sta facendo la Federal Reserve. Il risultato qual è stato? Che la valuta di Singapore si è deprezzata di circa l'1,6% nei confronti del dollaro. E guardando in avanti che cosa succede? Beh, guardando in avanti ci aspettiamo nei prossimi giorni decisioni da parte delle banche centrali di Russia, Messico, Nuova Zelanda, Sudafrica e Colombia. La settimana prossima toccherà all'India. Ecco, attenzione, perché tutti in questo momento stanno pensando agli sviluppi sui rapporti di cambio. Il dollaro si sta rafforzando, le altre valute si stanno indebolendo, ed è vero che l'America è favorevole a una politica per il dollaro forte, però variazioni troppo rapide hanno conseguenze pericolose per i mercati e per l'economia reale, soprattutto per la competitività delle esportazioni americane. Ecco dunque che la Fed introduce il termine internazionali. Ecco, per chiudere veniamo all'aspetto più tecnico, perché vi dicevo che il mercato ieri scommetteva su minori probabilità che gli aumenti dei tassi sui fondi federali, che è il fondo interbancario, verranno a giugno. E si scommette che possano slittare addirittura ad ottobre. Perché? Ecco, voglio spiegarvelo di nuovo per entrare un po' nel dettaglio. Perché ci sono i cosiddetti futures, che sono dei contratti che consentono di acquistare determinati strumenti monetari a un certo tasso di interesse. Allora, i contratti per i Fed Fund per giugno sono diminuiti dallo 0,215 di fine dicembre allo 0,165 di ieri mattina, i contratti future naturalmente. Comunque sia, in base a queste attese future si è dedotto che possa esserci il 65% di probabilità che i tassi non aumenteranno a giugno ma a ottobre. Subito dopo il comunicato la probabilità di un aumento a ottobre è salita al 66%. Dunque, a un anno dal suo insediamento sta manovrando molto bene, e però se il 2014 è andato come da copione, beh, d'ora in avanti la situazione per la Yellen si farà, secondo me, un po' meno semplice. Stiamo entrando in navigazione in acque, come dire, un po' turbolente, e chissà, forse per darle forza e coraggio, il Consiglio ieri ha deciso di approvare il comunicato all'unanimità, cosa che non succedeva da parecchio tempo. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di conflitti fra banche centrali e di ricerca di opportunità da parte di queste banche, ciascuna per la propria valuta. E dunque vi propongo una canzone dei Pet Shop Boys, Opportunity. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.